Avrei ancora appunto un paio di questioni da sottoporti, partendo dal capitolo 5 di questo testo, che ha un titolo anche molto accattivante, Il trasloco di Dio. Cioè si tratta di prendere consapevolezza, se ce ne fosse ancora bisogno, ma penso ce ne sia ancora bisogno, che in particolare il cristianesimo non è più una religione eurocentrica, che appunto mette al centro l'Occidente in generale e l'Europa in particolare. Si tratta di parlare di un cristianesimo globale, dove diciamo la massa critica si sposta sempre di più verso l'Africa e comincia ad affacciarsi anche qualcosa in Asia, no? D'altra parte il grande teologo Johann Baptist Metz, già attorno agli anni 80-90, invocava una chiesa che fosse culturalmente policentrica, no? Appunto non ci fosse un centro solo, appunto l'Occidente o l'Europa, ma si sapessero individuare una molteplicità di centri, proprio perché diverse sono le culture, no, che afferiscono al cristianesimo. Ecco, allora vorrei appunto che tu ci dicessi qualcosa su questo, e anche facendo in particolare un riferimento a ciò che scrivi nel sottocapitolo, la missione come dialogo profetico, perché spesso pensiamo che dialogo e missione siano due operazioni, se non, come dire, alternative, ma distinte. Il dialogo prepara alla missione. Io non credo che il dialogo prepari alla missione, io credo che il dialogo sia lo stile della missione, o debba essere lo stile della missione. E quindi, se ci dici anche qualcosa a questo proposito. Allora, mi alzo in piedi anch'io, e grazie anche di questo riferimento. Allora, io partirei da questo dato, da questo ultimo, la missione. La Chiesa ha senso se è missionaria, parto da questo dato. Nel momento in cui la Chiesa non viva la missione, l'evangelizzazione, dal mio punto di vista, se chiude domattina non ci rimettiamo nulla, perché se è una struttura così burocratica di potere, la Chiesa esiste. Poi Papa Francesco lo traduce con questo slogan, la Chiesa in uscita, ma in realtà è la Chiesa missionaria, la Chiesa che durante il Concilio Vaticano II rilegge questa sua dimensione nella Ad Gentes, dicendo documento Ad Gentes, documento totalmente sconosciuto se non proprio agli addetti ai lavori, però con due sottolineature importanti. Una, che la missione è un fatto profondamente teologico, cioè in realtà la prima missione, il primo invio è quello di Dio Padre che invia il Figlio sulla terra, il quale opera per mezzo dello Spirito Santo. Quindi la missione è un fatto profondamente teologico e teologale, che non è una cosa da poco. Secondo messaggio che viene dalla Ad Gentes, che secondo me dovrebbe passare nelle parrocchie, nel senso che questo è un po' l'ABC, che certamente ci sono degli specialisti, della gente che dedica la vita, abbiamo sentito prima Padre Chiera, alla missione, e quindi si reca altrove, ma in realtà la missione comincia qui, in realtà siamo tutti missionari. La coscienza del fatto che ciascuno di noi dovrebbe essere missionario, cioè dovrebbe testimoniare il Vangelo in primo luogo con la propria vita, nei propri contesti di riferimento, questo per me è fondamentale. E allora da questo punto di vista è evidente quello che dicevi, ma che che è importante sottolineare, che al contrario di quanto alcuni pensano, dialogo e missione sono profondamente intrecciati. Oggi non si può più fare missione se non si fa anche dialogo. Ma guardate, questa è un'acquisizione che viene da molto lontano. Cito un nome fra tutti, il gesuita Matteo Ricci, che nel 500 va in Cina e si traveste da mandarino. Ma si traveste da mandarino perché vuole interloquire con i cinesi. Nel momento in cui non ci fosse stata quella scelta, non avrebbe avuto nessun tipo di interlocutore. E oggi Matteo Ricci è una figura importante anche nella Cina attuale, viene considerato. Ecco, quindi missione e dialogo si intrecciano, e questa è la profezia della Chiesa, evidentemente. I profeti non sono quelli che dicono una banalità, però insomma forse non è mai male ricordarci, non sono i divinatori del futuro, non sono quelli che ci dicono quello che succederà, sono quelli che fanno i conti a caro prezzo con la parola di Dio e che quindi la vivono nella loro vita quotidiana. E non a caso poi tanti personaggi che forse noi abbiamo stimato, che noi stimiamo, che hanno subito vere e proprie persecuzioni o comunque ostracismi da parte della propria Chiesa, oggi sono recuperati. I nomi davvero sono tanti, ma da padre Turoldo a padre Ernesto Balducci, figure che hanno lo stesso Tonino Bello, non è che avesse ricevuto tutti gli applausi del mondo durante la sua testimonianza. E oggi non parlo di Don Milani, ma insomma tanti. E guarda caso, Papa Francesco ha intuito che non è il problema di un risarcimento, ma è un problema di un riconoscimento ecclesiale, del fatto che i profeti normalmente sono bastonati, che la Bibbia parla chiaro, e quindi non stupiamoci. Quando abbiamo troppi applausi, non è il mio caso evidentemente, quando abbiamo troppi applausi stiamo un po' attenti, perché forse è l'aria che tira nel mondo. Ma la mondanità è il peccato più grande e quindi stiamo molto attenti. Allora, il trasloco di Dio, faccio solo questa considerazione. Quando nel 1945 finisce la Seconda Guerra Mondiale, i tre paesi in cui ci sono il maggior numero di cattolici al mondo sono Italia, Francia e Germania, che ha annesso l'Austria con l'Anschluss. Quindi 80 anni fa il cattolicesimo è in tre paesi che in quel momento stanno confinando e che non a caso 20 anni dopo tradurranno questa presenza in buona parte nella preparazione del Concilio Vaticano II, infatti saranno i teologi tedeschi, i pensatori, i scrittori e anche teologi francesi e diciamo così le maestranze italiane a produrre il Vaticano II, che però sarà il primo concilio finalmente planetario. Per la prima volta la voce di quelle che allora si chiamavano le voci, le giovani chiese, o qualcuno li chiama la terza chiesa, ha incominciato a farsi sentire. Ecco, se facciamo un salto all'oggi e ci facciamo la stessa domanda, quali sono i paesi in cui c'è il maggior numero di cattolici, ma poi il discorso per gli altri cristiani, soprattutto il protestantesimo, grosso modo sarebbe lo stesso, sono il Brasile, il tuo Brasile, sicuramente, sì, un paese più cattolico del mondo, cambiamo, adesso diventano più evangelici. Lo so, c'è una spinta evangelica. 30%. 30 addirittura, mamma mia. Comunque è ancora il Brasile, secondo il Messico, terzo a pari merito Stati Uniti e Filippine. Ecco, basta questa radiografia per dire che da quel pezzo di Europa centro-meridionale di cui parlavamo prima, adesso abbiamo convocato continenti diversi, Nord America, Sud America e addirittura Asia. E come si diceva prima, il futuro cristiano è, almeno dal punto di vista statistico, demografico, numerico, l'Africa. Ora, tutto questo vuol dire che sarà il paese di Ben Godi, che l'Africa prenderà piede, prenderà potere, eccetera, non lo so e non mi interessa. Certamente quello che oggi posso dire è che guardare con attenzione le chiese africane, le chiese latinoamericane, le chiese asiatiche, la loro esperienza di missio inter gentes, come dicono i vescovi asiatici, quindi missione fra la gente più che ad gentes, è particolarmente importante. Io ho scritto delle pagine nel libro che non sono proprio di lettura così di sera prima di andare a letto, insomma bisogna anche un po' ragionarci, però per me è stato importante raccontare per esempio delle chiese asiatiche di cui non sappiamo nulla, chiese povere ma chiese che stanno cercando di fare un lavoro prezioso, importante. Sull'Africa c'è già più letteratura, ma nello stesso tempo c'è anche poca comprensione del fatto che se noi, permettetemi, continuiamo a depauperare la chiesa africana importando i preti nigeriani e congolesi e facendo venire in Italia, facciamo un'operazione che grida vendetta, che è sbagliata da tutti i punti di vista. Quindi io dico, per favore, parliamone con i nostri vescovi, che il passato è passato, ma continuare in questa pervicacia, e come potete immaginare non è minimamente perché io ce l'ho con questi preti, alcuni dei quali bravissimi, ma perché proprio i preti che hanno studiato di più avrebbero bisogno di rinforzare la loro chiesa d'origine e dare voce a una riflessione teologica di un certo tipo. Prima cosa. Seconda cosa è perché questo è frutto della nostra pigrizia mentale e del nostro poco Vangelo, perché è molto più facile dire vabbè, ci vengono a mancare i preti, allora li importiamo come... No, non è semplicemente così. Innanzitutto perché bisogna interrogarsi di più sul venire a mancare i preti. Ora io do una notizia che qualcuno può piacere, altri dispiacerà, ma andiamo verso una chiesa senza preti, è evidente, non sarà domani, però è questa la prospettiva. Ma è evidente che sia così, perché la costruzione sociale del prete che ha un ruolo all'interno di una struttura collettiva insieme al farmacista e al sindaco è figlia di una stagione in cui papà e mamma facevano 10 figli e quindi spostarne uno in convento e una in un monastero era piuttosto comodo per le finanze familiari, e soprattutto c'era un riconoscimento sociale nei confronti del prete che era autorevole, che oggi non c'è più. Anzi, rischia in certe zone di essere addirittura in controtendenza. Quindi il nostro tema sarebbe oggi, io gli dico continuamente, pensare oggi la chiesa di domani, pensare oggi che cosa vuol dire una chiesa senza preti, pensare oggi che cosa vuol dire, e non continuare a mettere i rattoppi in vestiti che hanno bisogno di una revisione profonda. Il ruolo dei laici può continuare a essere ancora questo ruolo vassallo e senza nervo? Il ruolo delle donne possiamo continuare, io dico, a prenderle in giro, perché io se fossi una donna mi sentirei presa in giro dal fatto che da secoli siamo il nervo delle parrocchie, delle chiese, dei movimenti, e poi il riconoscimento ecclesiale manca anche da parte di chi diceva il genio femminile, che è il modo per dire state lì, tanto voi geniali, e anche da parte di Francesco, lo dico naturalmente essendomi schierato e schierandomi totalmente pro Francesco in tutto, però questa commissione sulle diaconesse, che dice non dice, che dice però non produce nulla, fino a quando si potrà aspettare e fino a quando potremo far finta di niente? Io credo che qui c'è un nodo cruciale. Il ruolo delle donne nella Chiesa cattolica non può più essere questo, evidente. Io non ho né potere né bacchetta magica, però credo che a salire, a proposito del sinodo, quello del sinodo, mi auguro, tra l'altro lì ci sono anche alcune tra le consulenti e tra delle donne molto in gamba, spero che questo emergerà. Questo è il vero problema, voglio provocare, non i preti che si sposano, i preti si sposano, facciano quel che voglio, intanto adesso non so, ma io non so le tue scelte sessuali, ormai però sono fuori concorso. Tu sei fuori concorso, ognuno grosso modo fa, non è mai troppo tardi, però voglio dire, non è, faremo le battaglie su questo, faremo le battaglie sul presbiterato alle donne. Prendiamo le donne e interroghiamoci su dove. Io per esempio quella delle diacone, diaconesse, eccetera, dovrebbe essere una cosa decisa domattina con un motu proprio, basta. Ecco, questo lo troverei un segnale di una stagione nuova insieme a altri segnali che invece ci sono. Perché parlava della Chiesa in uscita, no? Allora è uscito questo libro che abbiamo fatto, il Centro Missionario di Mondovì, sulla nostra esperienza di Fide in Dodo, preti diocesani e laici che hanno lavorato in Brasile, America Latina, e qui abbiamo Renato, Emeo, Alfredo, che adesso mi pare sia uscito, il sottoscritto, chi era? Allora, quindi questo libro si trova all'Unione Morregalese, alla Libreria Morregalese, oppure anche chiedete, qui adesso ne faremo avere anche, perché ne abbiamo fatte 1500 copie. Oh, però, ottimisti. È la nostra esperienza, che abbiamo fatto giù quasi 50 anni fa. È l'unico che continua ancora, che è vivo, è Renato, che continua a renatizzare il suo messaggio evangelico. Quindi, scusate lo spot. No, anzi. Grazie. Allora arrivo all'ultimo step, poi evidentemente spero ci sia tempo anche per lasciare la parola ai convenuti, è relativo all'ultimo capitolo ottavo, che dal mio punto di vista è quello che mi è piaciuto di più. È il più difficile, è stato il più difficile da scrivere. Ma secondo me appunto hai fatto un bel lavoro, l'ho apprezzato molto. Grazie. È intitolato Le nuove virtù teologali. E immediatamente sembrerebbe che tanto nuove non sono, perché appunto aver fede, sperare, amare. Sono quelle tre. Che appunto già la scolastica medievale declinava in questo modo. Però ci sono alcune spie che, mi sembra, ci fanno intuire che effettivamente c'è della novità. Anzitutto questo capitolo si apre con un paragrafo intitolato Il non credente che è in tutti. Ecco, questo già, come dire, ci spiazza. Perché le virtù teologali evidentemente hanno a che fare con l'esperienza cristiana, quindi anche con la fede appunto nel Dio di Gesù Cristo, però è interessante iniziare con questo riferimento al non credente che è in tutti, no? Perché questo vuol dire che ciascuno di noi deve fare i conti con un'alternativa che è sempre possibile. La fede in Dio non è qualcosa di automatico, di scontato, non è una dotazione che una volta che ce l'hai te la tieni in tasca e non la perdi più. La fede in Dio, vorrei dire, è una continua negoziazione, no? Appunto con il non credente che è in noi. E il non credente non vuol dire il perverso, il malvagio, no? Ma semplicemente vuol dire avere una visione della vita che non necessariamente implica il riferimento alla trascendenza, a Dio, no? E oggi appunto questa posizione non è qualcosa di residuale, è qualcosa che come dire, è diventata una presenza consistente nella nostra realtà. È quello che Charles Taylor chiama l'umanesimo esclusivo, cioè appunto una visione dell'uomo che esclude il riferimento alla trascendenza come qualcosa di determinante. Ecco, mettere questo tema all'inizio mi sembra sia già una spia interessante per dire le virtù teologali saranno formalmente sempre quelle, ma devono essere giocate in questa continua negoziazione con il non credente che è in noi, no? Quindi vorrei che ci dicessi qualcosa su questo, ma poi ti chiederei, ecco, di spendere qualche parola anche sull'ospitalità di Babette, questo bellissimo film a cui tu fai riferimento e a cui dai un certo rilievo proprio nella architettura della tua, del tuo libro, fino ad arrivare a parlare nelle conclusioni della necessità di ispirarci ad un pensiero di Babette. Ecco, quindi vorrei che ci dicessi qualcosa anche su questo, perché mi sembra appunto un esito molto stimolante del tuo percorso. Grazie anche della sottolineatura. Io andrò a spot perché mi piacerebbe dopo trovare qualche tempo perché anche voi diceste, certo, qualcosa, quindi vado a spot. Innanzitutto ti ringrazio davvero di aver rimarcato questo capitolo che, devo dire, appunto è stato il più faticoso, mentre gli altri sono figli di riflessioni che avevo anche fatto precedentemente. Questo nasce un po' dal nulla, ha visto una serie di revisioni e la sottolineatura che fai dell'inizio è importantissima. Lì, devo dire, è stata anche la frequentazione, purtroppo non diretta, ma con i testi di Carlo Maria Martini, che ha avuto la fortuna di curare per un volumone dell'opera omnia di Martini, quella che si intitola Fratelli e sorelle della Bompiani, che per 2 anni insomma ci sono stato sopra, e mi ha fatto ulteriormente confermare sull'idea sua e mia, insomma, che oggi chi non ha dubbi riguardo la fede ha dei problemi, ha dei seri problemi, cioè, vuol dire che pensa poco, insomma. Solo riflettere un po' su alcuni impianti, tra l'altro, apro una parentesi, c'è tutto il discorso dei novissimi, al quale ho dedicato il mio libro, al quale tengo molto perché è uscito durante la pandemia, che si intitola Dopo, che è un problema in sé. Oggi tutto l'impianto dei novissimi è scomparso, voi preti ne parlate sempre meno, a ragion veduta, perché ci sono delle situazioni che sono molto più figlie della Divina Commedia che di una sensibilità biblica, di una sensibilità cristiana. Quindi, e questo è un problema non da poco, perché sull'aldilà la predicazione ecclesiale per secoli ha basato la sua forza e la sua efficacia. E poi, appunto, fatta questa premessa e questa chiave di lettura, le tre virtù teologali, che io traduco soprattutto in fede come fiducia, perché è la crisi di fiducia che apre una crisi di fede. Nel momento, come ha scritto qualcuno, che oggi siamo nel clima della morte del prossimo, io dell'altro immediatamente diffido, io dell'altro immediatamente mi metto dietro uno schermo e non apro una relazione, evidentemente dopo come faccio ad avere fede in Dio che non vedo, se non ho fede nel mio fratello, nella mia sorella che vedo. Quindi qui c'è tutto un problema umano di ricostruzione di cosa significa relazionarci all'altro, di cosa significa rapportarci a chi incontriamo e di cui appunto oggi diffidiamo in primo luogo. Il discorso della carità, dopo vengo su Babette, ecco la speranza, io ci lavoro molto perché credo che oggi questa virtù bambina, come è stata definita da Charles Peguy, sia quello di cui oggi avremmo più bisogno e non ce n'è. Ma senza la speranza i nostri giorni sono privi di colore, sono privi di senso. Però attenzione, la speranza non è quella che avevamo nei primi giorni della pandemia quando abbiamo fatto fare ai nostri bambini l'arcobaleno con andrà tutto bene, perché quello è il banale ottimismo, poi chiaro ci stava all'interno di qualche cosa che non conoscevamo. Ma speranza non è ottimismo, speranza non è banale dire va tutto bene. E allora qui uso, spero che sia un'occasione per rileggere o per leggere alcuni capitoli, uso la figura del profeta Geremia come il profeta della speranza per eccellenza. Ed è paradossale che talvolta viene preso per un profeta porta sfortuna, porta iella, perché racconta sempre tutto il negativo. E Geremia è ciò di cui abbiamo bisogno oggi, di uno che anche nei momenti, appunto, come dicevamo prima, di difficoltà, di segno meno dappertutto sul piano delle statistiche, ci dice, guarda che nonostante tutto Dio ci guarda, nonostante tutto Dio sa leggere, potremmo dire, sulle righe storte riesce a tirar fuori qualcosa di positivo. E la storia di Babette, che è questo film meraviglioso che è tratto da una novella, da un romanzo di Karen Blixen, da una novella, e è secondo me, io non vi dico cosa c'è nel film, così andate a leggerlo nel libro, andate a vedere su Wikipedia, ma vi dico che io l'ho trovata come la nuova storia di Ruth. Ruth è uno dei libri più straordinari della Bibbia, un libro breve in cui il protagonista è una donna e questo amore che fa dire a Ruth, parlando alla suocera, dovunque tu andrai io andrò, tra l'altro è il titolo in inglese di una canzone di Leonard Cohen che tratta proprio da Ruth, è questo amore incondizionato, questo servizio incondizionato. Anche Babette potrebbe finalmente tornare a casa e avere finalmente quello che sperava, ma capisce che in quel momento il suo posto è lì, il suo posto è continuare a servire questa comunità che prima le sembrava una comunità totalmente fuori sincrono e molto cupa di un luteranesimo particolarmente, e invece l'affettività che nasce dal mangiare assieme produce il miracolo, produce un incontro che non avrebbe mai immaginato, e di fronte a questo bene enorme lei spende tutto quello che ha vinto alla lotteria, perché non, quando incontri ciò che conta davvero spendi tutto per averlo, e questa perla preziosa è come nella parabola evangelica, di fronte alla possibilità di ritrovare la perla preziosa, il tesoro eccetera, tutto il resto si può dare. Grazie. Grazie. Quando parlavi di Geremia mi era venuto in mente una battuta di Don Giovanni Giorgis, il quale diceva: quando siete in crisi, chiamate Geremia 3131. Vi darò, toglierò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Bello. Quindi quando siete in crisi chiamate Geremia 3131. A proposito della carità, per richiamare quello che diceva Renato, tu dici, tu consideri sublime, parola diretta, la definizione laica di carità data da Luigi Pintone. Sì. Che diceva così: non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro cingendo il collo possa rialzarsi. Anno 205. Confermo, io ho letto tra l'altro tutto questo romanzo piccolo. Hai sentito questa cosa? No, perché ti è dedicata, allora per favore rileggerla, perché non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro cingendo il collo possa rialzarsi. È questo che dobbiamo fare, questo che manda. Io vedo che questa è la testimonianza, le altre la gente non la sente più in tutte le parti del mondo. Infatti, e non è un caso, io l'ho voluta. Dell'amore, lì tu dici Dio. Io l'ho voluta rimarcare proprio perché è all'interno di un piccolo romanzo, che è un gioiellino secondo me, di un intellettuale, giornalista, che è stato comunista, che non era cattolico, Luigi Pintore, che è stato uno dei fondatori del manifesto, e che lì, secondo me, c'entra perfettamente il fatto che non ci sono confini, perché di fronte a quel gesto il problema non è la tessera o la appartenenza religiosa che tu esibisci, il problema è che tu sia in quel momento colui o colei che, abbandonata per terra, riesce, cingendoti il collo, a rialzarsi. Tra l'altro, rialzarsi è il verbo della resurrezione. Posso dire una cosa? Noi siamo in Africa, in Elisabetta, la maggioranza sono musulmani. Noi dobbiamo dire Dio senza parlare di Dio. Questa è la sfida che abbiamo. Non possiamo parlare di Gesù Cristo, non possiamo. Dobbiamo dire Dio senza parlare di Dio. Ma per esempio, abbiamo avuto un bambino che un musulmano stava morendo e non abbiamo invitato. Adesso, ieri, mi è arrivata una foto di un bambino, la mamma è morta dopo il parto, nessuno vuole questo bambino perché se la mamma è morta, perché il bambino ha un Iran, uno spirito che può fare del male, perché il bambino ha fatto morire la mamma. E allora adesso bisogna avere il latte per lui, per questo bambino. E ci hanno chiesto se potevamo dare il latte. Questi sono segni. Io vedo che questo è il futuro, per me non è che sia negativo, cioè se noi viviamo l'amore, per noi non ci vive più l'amore, questo che è il male. Questo che a me fa paura, la fine della fede, della guerra, la fine dell'amore. No, dico solo che quanto diceva Don è stato incarnato perfettamente da Charles Foucault. Il fatto che l'anno scorso ci sia stata il riconoscimento della santità di De Foucault è per me stato un segnale fortissimo, perché De Foucault nei confronti di Tuareg ha fatto esattamente questo, e in tutti i suoi sogni di fare una chiesa, di fare un istituto missionario eccetera, ha fallito, e invece non ha fallito in questa immersione totale in una realtà di cui si è fatto servo anche sul piano culturale. Anche sul piano culturale, perché ha fatto il dizionario francese Tuareg, ha raccolto le opere letterarie dei Tuareg, e questo secondo me è il segno di una sensibilità che davvero sta cambiando. Grandissima figura, lo conoscerete naturalmente, se non lo conoscete avvicinatevi, perché è impossibile non innamorarsi di De Foucault. Leggendo il tuo libro. Beh, adesso non volevo, no, perché dopo diventavo un po' uno spot vergognoso, insomma. Altri interventi? Se ci sono. Anche l'arte di Berin. Sì, anche, certo. La signora aggiungeva i martiri di Tibirin. Sì. certamente, che sono tutte figure che testimoniano questo tipo di servizio, non c'è dubbio. Christian de Chergé, andarsi a leggere la sua lettera a testamento al musulmano che l'avrebbe ucciso, lui ipotizzava, pronosticava che sarebbe stato ucciso, è una bellezza lancinante. Christian de Chergé, uno dei martiri di Tibirin, a cui è stato dedicato quel film Des Hommes et des Dieux, tradotto malamente nel titolo italiano Gli Uomini di Dio, che non è così, Des Hommes et des Dieux. Per fare una domanda, se posso. Sì, il nome? Sergio. Sergio. Dunque, c'è una frase di Gandhi che suona per me. Gandhi? Gandhi. Frasi di Gandhi che sono più o meno così: il cristianesimo è una bella religione, peccato per i cristiani. Peccato per i cristiani. Cioè, se suona per i cristiani, non dimostriamo che sono cristiani. E dico questo perché è molto efficace questo pensiero di Gandhi, perché all'inizio dell'incontro abbiamo detto alla fine. Quello di cui c'è bisogno è un ritorno a Cristo da parte del potere cristiano. E quindi volevo chiedere, cioè noi non basta un certo queste poche ore fare un esame di coscienza personale sul cristianesimo, ma noi che cristiani che abbiamo Cristo, diciamo così, dobbiamo metterci in discussione, nel senso che relazione abbiamo con lui e come lo viviamo. Come lo viviamo è facile, amare, tutto il mondo, tutte le religioni dicono di amare, ma non tutti hanno Cristo. Allora, dobbiamo chiederci, questo Cristo farà differenza o no? Io lo chiedo me stesso. E se non lo fa, e non l'ha fatto, non lo sto facendo la differenza, visto che il cristianesimo sta chiudendo, tra virgolette. Ecco, allora ognuno di noi deve chiedersi come mai io non faccio vedere Cristo alla mia famiglia. Io ho 4 figli, non dico altri, ma quasi. Vogliata quasi, quindi devo proprio mettermi in discussione. Volevo chiedere, ecco, questo ritorno a Cristo cosa vuol dire qui in sintesi? Più preghiera, più amare è una parola che non mi piace, scusate, amare non mi piace, è troppo tradizionale, è troppo sentimentale. Facciamo dei gesti concreti. Amare è tutto, ma è anche niente. Possiamo riempirci la bocca di amore, ecco, ma noi cristiani cosa dobbiamo fare per vivere Cristo effettivamente? Non so, è una provocazione, certo. Non sono tanto d'accordo, sai? Perché l'amore non è un sentimento, l'amore è un gesto, non è un sentimento, è dare la vita dell'altro, cristiani. Infatti mi riferivo all'amore, quando senti amore, Prego. Io sono Claudia, piccola soltanto testimonianza. Io ho lavorato per più di 20 anni in mente in Israele, occupandomi anche di aree internazionali di queste cose, quindi ho lavorato per le ricercare sia sul territorio che fuori. Ho sempre sostenuto che, come ho detto, essere donna e laica è l'ultimo gradino. Ho combattuto molto perché ho questo tipo di accezione, perché credo molto in quello che faccio, in quello che è la fede. Il problema è che io sono uscita sconfitta, ho salvato la mia dignità, ma sono uscita sconfitta. Io le chiedo, c'è qualche speranza, ma concreta, che questa tendenza a in questo modo, dove non ci sono preclusi avanzamenti, cioè io sono arrivata a un certo punto dopo la review, non è possibile. La diaconia, per esempio, perché? La diaconia sono stati con figli, perché una donna non essere una diaconia? Perché per me è stato un problema che mi ha seguito, perché io ho deciso di lottare. Però, ripeto, la finanza di questo film ha dovuto per salvare la verità. Questo è. Stare un po' attenti, perché Gesù ha scelto sua madre, ma allora che rapporto c'è? Cioè, è una cosa un po' strana. No, adesso al di là delle battute, le battaglie si fanno anche quando si perde, quando sono battaglie giuste. Quindi io credo che bisogna ringraziarti, bisogna ringraziare tutte le donne che hanno fatto queste battaglie apparentemente ottenendo niente, ma comunque mantenendo viva la dignità, che alla fine è la cosa che l'ultimo giorno diremo me ne vado ma con dignità. Questo è quello, credo che sia il massimo che potremo ottenere. Quali sono dei segnali che vanno in controtendenza? Beh, innanzitutto che questa sensibilità e questi discorsi si cominciano a sentire e fai fatica a trovare il prete accigliato di turno, quello che una volta era scontato intervenisse dicendo ma cosa vai dicendo? Perché è toccabile con mano lo stato di ingiustizia perpetua che c'è, il fatto che vai a finire sempre nelle funzioni di segreteria, che comunque devi sempre dare ragione al maschio di turno. E io prendo come spia di un cambiamento in atto, là c'è Sonia che è una testimonianza vivente di questo, il fatto che il coordinamento delle teologhe italiane dal nulla e senza incoraggiamenti da parte, che io sappia, da parte dei vertici, ha saputo creare nell'arco di una quindicina d'anni un patrimonio di lavoro, di riflessione comune e soprattutto di stile di lavoro partecipato, di valore immenso, ancora troppo poco conosciuto, ma in realtà donne che parlano, che vanno in giro a fare il mio mestiere, ce n'è tante e per fortuna molto più brave, e bibliste e ecclesiologhe eccetera. Voi qua avete avuto, qua o comunque in giro dove era la Serena Noceti di gran lunga la migliore ecclesiologa che c'è in Italia, ed è una donna che nella sua diocesi non riceve continuamente applausi, per usare un eufemismo soft, però questo sta succedendo. Ecco, io per esempio questo non immaginavo di riuscire a vederlo in tempi così brevi. E la dimostrazione che le donne, quando prendono sul serio qualcosa, che hanno marce in più, questo è un dato abbastanza oggettivo. E per il resto io mi auguro davvero che al sinodo su questo arrivi una parola chiara, sì, perché se non arriva davvero ci sarà un'altra delusione. Sulle diaconesse mi stupisco ancora di doverne parlare, perché dal punto di vista del riferimento scritturistico è chiaro che le diaconesse c'erano. È un po' come quando si dice ma i preti devono essere maschi perché all'ultima cena erano tutti maschi, ma non ci si rende conto del ridicolo di questa affermazione, perché all'ultima cena erano tutti ebrei, quindi i presbiteri dovrebbero essere tutti ebrei, che tra l'altro è un'appartenenza piuttosto sostanziosa. No, qualche cosa sta cambiando molto lentamente, però ripeto, quel lumicino del CTI, andatelo a vedere, Coordinamento Teologo Italiano, è veramente un bel lumicino. E Sergio ha aperto uno squarcio enorme, Gandhi da quel punto di vista lì, capisco, le frasi si dicono, poi appare anche un po' ingenerosa, perché insomma i cristiani nella storia sono stati anche quelli che fortunatamente hanno preso sul serio il Vangelo, perché altrimenti tante cose nella storia non sarebbero successe. Certo, capisco la provocazione e la prendo come tale. Ecco, voglio sottolineare una cosa. Quando tu dici, intanto solidarizzo con i figli atei, questo è normale, è la storia in giro, dappertutto, è la prima generazione credula, è così. Abbiamo Cristo, ecco lì bisogna stare attenti cosa vuol dire. Abbiamo Cristo, no, non ce l'abbiamo, non è mica nostro. Fortunatamente Cristo, proprio anche la sottolineatura del termine, che non è Gesù, Yeshua, ma Cristo, cioè l'unto. Cristo ce l'ha il mondo, è il mondo che deve decidere se prendere sul serio o meno la sua parola. Siamo tutti, anche coloro che poi sul piano religioso, e Gandhi è proprio un esempio da questo punto di vista, perché ha preso sul serio Cristo pur essendo induista, e va benissimo che sia così. Poi sapete che Yehoshua incomincia a essere riconosciuto, Yehoshua ben Yosef, dal mondo ebraico. Ci sono ormai delle testimonianze numericamente non significative ma intellettuali ebrei che incominciano a interrogarsi su cosa significhi il fatto che Gesù sia un loro fratello. Poi c'è qualcuno che dice Issa è nel Corano ed è una figura chiave del Corano, perché è il profeta escatologico, è colui che inaugurerà gli ultimi tempi. Quindi voglio dire, ci sono mondi che hanno preso sul serio Gesù. E la domanda torna a essere quella di prima: la Chiesa lo prende sul serio oppure lo inscatola, lo banalizza, lo depotenzia? E qui naturalmente ognuno potrà dare la sua risposta. Io per esempio credo che quel capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, che consiglio di andare a rileggere sempre dovunque, questo incontro con la donna di Samaria, sia la più grande profezia sulle prospettive di qualsiasi fede. Faccio un rapidissimo riassunto, ma lo ricordate tutti. Una donna e un uomo, è mezzogiorno, caldo enorme, si incontrano, donna e uomo, già cane e gatto naturalmente, ma non solo, un ebreo e una samaritana, che sono ancora di più cane e gatto, parlano, e a un certo punto questa donna intuisce che ha davanti un profeta, e allora gli fa la domanda che probabilmente gli avremmo fatto anche noi se l'avessimo incontrato. In buona sostanza, è: qual è la vera religione? Quello che dicevo prima, qual è la vera religione? Lei la traduce così: ma avete ragione voi ebrei che avete Mosè, avete il Monte Sinai, oppure noi samaritani che abbiamo il patriarca Giacobbe, abbiamo il Monte Garizim, chi è che ha ragione? E allora Gesù le dà la risposta definitiva e assoluta, che dice: credimi donna, è venuto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori di Dio lo sono in spirito e in verità. Allora torniamo al discorso di prima. Le religioni sono un fatto umano, noi ne abbiamo bisogno, ma, Gesù sottolinea, non sono le religioni che salvano. Non solo le religioni che salvano, se ancora pensiamo che sia l'appartenenza a una religione o un'altra che salva, siamo molto lontani. Cos'è che salva? È fare i conti davvero con questa adorazione in spirito e verità, che poi si aprirebbe un enorme dibattito su cos'è, però intanto avete capito, cioè non è l'andare in chiesa, in sinagoga, nella pagoda, nella moschea, non è questo, che è un fatto umano, che va bene, non c'è niente di male, voglio dire, ma non è neanche la caparra né per la salvezza, né per il futuro, né per il tuo star bene. Ecco, questo secondo me è il messaggio più alto del Vangelo ed è un messaggio che, come vedete, travalica le religioni, senza bisogno di andare a finire nel post-teismo. Lo dico con un briciolo di sorriso. Non è un problema di post-teismo, è un problema di prendere sul serio le religioni, che sono un fatto fondamentale, di non disprezzarle né di banalizzarle, ma di rendersi conto che la salvezza non passa di lì. Non passa di lì. Grazie. E possiamo concludere. Davvero grazie a Brunetto per, come dire, la ricchezza dei tuoi interventi, che d'altra parte attinge a piene mani alla ricchezza di questo libro. È un libro che ha un titolo che suona immediatamente provocatorio: Senza Chiesa e Senza Dio. Però a me è venuto da pensare che senza Chiesa e senza Dio erano anche i cristiani del primo secolo. I cristiani del primo secolo erano considerati atei dai pagani, perché appunto adoravano un Dio strano, come dire, fuori dai canoni, e quindi erano senza Dio. Se Dio lo identifichiamo con una determinata realtà. Ecco, quindi senza Dio nel senso liberi da tutti i pregiudizi nei confronti di Dio, aperti a riconoscere una verità, una realtà di Dio che in qualche modo è eccedente rispetto a come noi ci siamo sempre immaginati, no, che Dio dovrebbe essere. E poi senza Chiesa, nel senso che ovviamente nel primo secolo non c'era l'istituzione ecclesiale ed ecclesiastica che noi oggi, con cui noi oggi abbiamo a che fare, di cui appunto abbiamo segnalato la crisi, no? C'era l'ecclesia, c'era la Chiesa, ma appunto nel senso del riferimento alla comunità, no? Ai volti, alle storie di coloro che sono stati convocati, ecclesia, no? Convocati da Gesù Cristo per stare con Lui e per testimoniarlo. Quindi anche questo ci dice: l'istituzione ecclesiale non può diventare un idolo. L'istituzione ecclesiale non deve essere neanche semplicemente eliminata, ma secondo me deve essere liberata da un ispessimento che impedisce all'istituzione di essere effettivamente trasparente rispetto a quell'Evangelo, a quella buona notizia che dovrebbe custodire e testimoniare. Quindi senza Dio e senza Chiesa è anche un modo per dire: dobbiamo ancora una volta ritornare all'inizio, no? Ancora una volta renderci conto che 2000 anni di cristianesimo ci sembrano molti, ma se ci mettiamo ad esempio in una prospettiva di 10.000 anni siamo solo all'inizio. E quindi forse c'è ancora molto da trarre, no? dal tesoro appunto dell'Evangelo. Per cui chiudo con queste considerazioni che ci lasciano, a mio avviso, una buona speranza, una speranza fondata, che non è un semplice ottimismo, ma è quel saper guardare oltre che è radicato nel riferimento a Gesù Cristo e al Dio nuovo che Gesù ci testimonia. Quindi grazie per questo. Abbiamo iniziato con una preghiera di invocazione allo Spirito Santo. concludiamo con un'altra preghiera che arriva sempre da Assisi quest'estate. Era una preghiera ecumenica nel corso di un incontro di preghiera ecumenico. La legge Sogna, teologa iscritta al coordinamento delle teologhe italiane. Dio della grazia e del perdono, insegnaci ad accoglierci nelle nostre differenze e a custodire in noi parole di riconciliazione. E là dove le ferite sanguinano ancora, rendi le nostre mani capaci di una carezza, segno d'amore che non si impone. Rendi i nostri volti capaci di un sorriso, segno di simpatia e di prossimità. Dio della grazia e del perdono, apri per noi cammini di reciproca comprensione, anche là dove sembra impossibile un incontro rispettoso delle nostre diversità. Apri il nostro modo di pensare perché sia pronto ad accogliere i molteplici punti di vista e le diversità dei temperamenti delle persone che ci circondano. Dio della grazia e del perdono, donaci la forza di osare sentieri nuovi, per non irrigidirci nei nostri schemi e nelle nostre rispettive appartenenze, nella consapevolezza che ogni identità di fede si modifica lungo il cammino della vita, costellato di incontri e segnato da sempre nuove trasformazioni. Dio della grazia e del perdono, insegnaci a non distogliere lo sguardo dalla sofferenza che riga i volti di tanti fratelli e sorelle che per diverse strade giungono fino a noi. Donaci il coraggio di denunciare il male e di farci prossimo a chi non ha più voce per reclamare il diritto ad una vita buona. Dio della grazia e del perdono, fa che non dimentichiamo che è la tua forza a sostenere il mondo ed è la tua parola ad indicare il cammino. Fa che, come i bambini e le bambine, non manchiamo mai di stupirci di fronte al prodigio del tuo amore. Grazie. Grazie.